Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quante volte ci siamo detti adesso basta, è ora di fermarsi? Quante volte, anche rivedendo la nostra vita come in un flashback, abbiamo pensato forse sarebbe stato meglio se avesse rallentato un po' il ritmo? Quante volte ci diciamo che il desiderio più grande che vorremmo vedere esaudito è poter fermare il tempo, almeno prendercene un po' per noi? Se anche a voi è successo e di aver sentito magari di recente un forte, incessante desiderio di fermare tutto e di dedicarvi un po' di tempo per stare con voi stessi, per fare qualcosa, allora oggi è proprio la puntata per voi, perché oggi ci prendiamo un po' di tempo, uno scarto di tempo, in a time lapse. In studio con me abbiamo il piacere di avere il maestro Ludovico Einaudi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È veramente un'emozione. Maestro, il suo ultimo lavoro nasce proprio dal desiderio di fermarsi, di riprendersi un po' di tempo dopo 3 anni passati in giro per il mondo. Sì, diciamo che 3 anni passati in giro per il mondo tra un aereo e l'altro, ma e poi in generale forse una riflessione sul fatto che il tempo appunto ha bisogno di essere cercato e bisogna trovare il modo di starci vicino, di possessarsene in qualche modo, di non lasciarlo scorrere via per conto suo, quindi bisogna pensarci in qualche modo. Quindi trovare un tempo per fermarsi e per riflettere, ma credo trovare anche un luogo per dare modo a questa alchimia di compiersi. La natura solitamente ci accoglie, ci nutre con i suoi colori, i suoi silenzi, i suoi suoni, le sue forme. E non a caso lei per registrare l'album ha scelto un monastero. Sono andata subito a vedere le foto su internet. Deve essere un posto magico. Sì, sono andato in questo monastero tra Verona e Vicenza, L'Onigo. E che si è rivelato perfetto perché c'era questa vita scandita da degli orari molto precisi con i pasti insieme ai monaci, ma poi noi lavoravamo in una sala molto bella con un'acustica molto bella, quindi c'era questa vita di lavoro e di riflessione, di concentrazione che ogni tanto mi faceva pensare, beh, forse se un giorno mi ritiro da qualche parte potrebbe essere qua. L'ho letto in una sua intervista, ci stava pensando l'idea di ritrovarsi lì, oppure comunque di andare lì ogni tanto a fare qualcosa. E anche è un luogo che se uno deve fare qualche cosa di concentrato, deve scrivere, vuole leggere, vuole semplicemente prendersi una pausa, prendersi il proprio tempo. Esatto. Che rapporto avete voi con il tempo? Ne siete schiavi o padroni? 800240024, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Soprattutto mi piacerebbe sapere quali sono i segnali che vi aiutano a capire che è arrivato il momento di prendervi un tempo. Il tempo è un tema cruciale nella nostra vita di tutti i giorni, un tema che entra in molte dimensioni anche della nostra salute, del nostro benessere. Qui con noi c'è Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Che a proposito di tempo, da quanto tempo siamo amici? Ma che ci accompagnerà proprio in una riflessione a più voci sulla musica e sul tempo, che naturalmente trae ispirazione dalla musica del maestro Einaudi. Alberto, la musica, il tempo ci permettono anche di entrare in una conversazione dedicata alla nostra salute emotiva. Ma sì, direi che effettivamente quando soprattutto uno psicoterapeuta si trova a confronto con un paziente che è in una zona di crisi o che sta riflettendo in modo approfondito su a che punto è arrivato della sua vita, il tempo è un protagonista magari mai raccontato, però è lì. Io credo che ci sia una dimensione verticale del tempo e una dimensione orizzontale. Quella verticale è in qualche modo tu sei in una fase della tua vita e o guardi sempre avanti, pensa all'adolescente che sta male perché vorrebbe bruciare le tappe, oppure sei in quel punto lì e cominci invece a guardare indietro, vorresti riavvolgere il nastro, vorresti rifare tutto da capo, e questo tra le altre cose all'uomo adulto succede sempre più di frequente. Quindi nella verticalità del tempo c'è spesso una zona di insoddisfazione e poi c'è una orizzontalità. Cioè nel qui ed ora sarebbe così facile stare dentro all'istante, cogliere l'attimo, essere noi stessi, presenti a noi stessi in questo momento. E invece succede che in questo momento noi vogliamo mettere 10 versioni di noi stessi. Cos'è lo stress? È un affollamento di esperienze in cui non troviamo l'equilibrio ma ci perdiamo, e questa è una delle cause delle sofferenze dell'uomo moderno. Ed ecco che la musica in realtà è spesso una modalità con cui proviamo a ridarci il tempo di stare nell'attimo, o ancora nell'orizzontalità del tempo tu ti annoi perché non sai cosa metterci dentro, invece mentre ti preoccupi della noia dovresti stare dentro alla noia perché immediatamente dentro di te trovi una risorsa. Trovo tra l'altro che l'immagine dell'albero della copertina di Ludovico Einaudi del nuovo CD racconta proprio la verticalità e l'orizzontalità, cioè un albero cresce in altezza e in quel senso ti racconta il passare del tempo, ma il qui ed ora della sua vita, cioè la storia delle stagioni che si susseguono una dopo l'altra, viene raccontato da quello che trovi sui rami, cioè dalla sua dimensione orizzontale. Maestro. Sì, poi in quella fotografia ci sono un po' tutte le stagioni, stagioni, no, insieme, sono belli, quindi c'è un'idea del tempo passato, presente e futuro. Stavo riflettendo su quello che diceva sul fatto che poi in realtà quando si è piccoli c'è una percezione del tempo che non so se è orizzontale o verticale, forse è un insieme di tutte e due le cose. È perfetta questa osservazione perché il bambino è l'unico che sta nel suo tempo, cioè non ha voglia di un futuro, non ha voglia di un passato, sta nel presente ed effettivamente essere bambini è stare lì dove sei. E stare, sì, nel momento, no? E, tra l'altro leggevo un po' di tempo fa, c'è un libro di uno scrittore francese, Sylvain Tesson, che ha scritto questo racconto che si chiama Nelle foreste siberiane. A un certo punto lui ha passato 6 mesi completamente isolato in una capanna sulle rive del lago Baikal, e a un certo punto l'ultimo mese è in compagnia di 2 cani e lui, osservando questi cani, prova una certa invidia proprio per questa cosa che dice: osservo che i cani hanno questa capacità di vivere il momento, per cui continui a tirargli un pezzo di legno. E lo prendono ogni volta con la stessa gioia senza mai stancarsi. Quindi forse sarebbe bello riuscire anche noi a recuperare quella cosa lì che a un certo punto si perde, no? Secondo lei si può recuperare? Secondo me si può recuperare. Io posso parlare di quello che, certo, che mi riguarda. Io attraverso la musica, quindi facendo una cosa molto precisa che mi tiene in uno stato anche concentrato, comunque riesco a vivere gli istanti distintamente. Certo che è una specie di disciplina che uno deve coltivare, perché poi il cervello è sempre affollato da 1000 cose. La stessa cosa mi succede quando suono durante un concerto, c'è uno stato ottimale in cui tutti i pensieri sono in qualche modo lasciati da parte, si annullano e uno è concentrato esclusivamente su quello che sta facendo in quel momento. Però è come una ricerca di questo equilibrio che è sempre in qualche modo messo in discussione, per cui bisogna lavorarci, non è una cosa più automatica come quando succede quando si è bambini. È una sorta di disciplina. Sì, direi che è un po' regalarsi anche la possibilità di stare nel flusso della tua vita lì dov'è. Penso che uno dei problemi più grandi che abbiamo noi umani è che effettivamente la nostra mente è una grandissima ruminatrice di pensieri, e i pensieri che ruminano non sono mai sul qui ed ora, ma è certo. Cosa ho perso o cosa potrei avere. Abbiamo sottolineato che la musica, ne abbiamo parlato tante volte nel corso di numerose puntate, che la musica è proprio un potente attivatore di emozioni, che può riaccendere i ricordi e in qualche modo ritrovare quel cordone ombelicale che ci lega al passato, anche all'infanzia. Noi abbiamo avuto il piacere, Radio 24 ha avuto il piacere di proporre in anteprima ai suoi ascoltatori l'ascolto di alcuni brani dell'album del maestro Ludovico Einaudi, che uscirà domani. Che è uscito credo oggi nei negozi di dischi, sì. Però insomma abbiamo anche avuto la possibilità di lanciare ai nostri ascoltatori questa proposta e l'abbiamo chiamata Ascolta e Scrivi. Sono arrivati dei testi molto belli, non invidio il maestro Einaudi perché dovrà sceglierne quattro, ma intanto ascoltiamo alcuni testi che l'ascolto di Experience, il brano che abbiamo mandato mercoledì, ha attivato nei nostri ascoltatori. Il brano che avete proposto mi ha suggerito l'immagine di una spiaggia con il mare che si infrange dolcemente sulla battigia, in un contesto autunnale o invernale, o semplicemente in un giorno senza sole. È un movimento continuo, anche se non ripetitivo, e sulla spiaggia ci sono anche degli scogli, per cui il mare si infrange anche su di essi. Cristina. Il rumore che fanno le gocce di pioggia sul finestrino dell'auto che guarda Pietro, mio figlio di 8 mesi. Da come le ascolta, non fanno lo stesso rumore di quelle che colpiscono il mio. Lo invidio un po'. Federico. Ascoltando le note del brano, mi sono immedesimata in un clima primaverile, seduta su una lunga distesa di un prato in fiore. I pensieri sono malinconici, ma la mente viaggia con speranza e gioia. L'atmosfera è positiva e saggia, colma di fiducia e fantasia. Gli occhi sono socchiusi. Il sole inizia a scaldare le giornate e la natura è nel suo massimo splendore. Più cerco di ricordare le note e più mi rendo conto che ora queste hanno lasciato un velo di ottimismo nostalgico. Anche se questa espressione può sembrare un paradosso, per me è un ottimismo colmo di esperienza. Experience. Monica. Le procura sentire queste parole, queste emozioni proprio ispirate e attivate dalle sue composizioni musicali? Beh, c'è quasi da montarsi la testa, maestro. No, da montarsi la testa no, per niente. No, mi fa molto piacere, secondo me è importante che la musica lasci la libertà a ognuno in modo diverso di essere in qualche modo ispirato a vedere delle cose. Difatti tutte le volte che mi chiedono di lavorare a delle musiche con dei testi, mi è capitato di farlo, però mi piace molto proprio la musica senza parole, perché lascia questa libertà in più. È proprio come se la musica ti apre delle porte dentro e sei ispirato a fare qualcosa. C'è molta gente che vedo che scrive dei pensieri come quelli che abbiamo ascoltato adesso, c'è gente che scrive poesie, romanzi, cioè, quindi mi scrivono in tanti, però diciamo che per me una delle cose più belle è sapere che la mia musica genera appunto ispirazione in altre persone. Questo mi sembra un regalo molto bello da poter fare, e questo diciamo naturalmente è successo anche a me in passato ascoltando altre musiche o leggendo dei romanzi, per cui una cosa che... Ma è diverso l'impatto che ha la lettura di un libro dall'ascolto di una musica? Generano comunque, sono due occasioni per che ci portano a riflettere, ad attivare, no, le nostre emozioni, i nostri ricordi, ma mi sembra che siano un po' due strade che ugualmente è importante ma parallele, ecco. Sì, beh, forse la forse la musica entra in una zona più profonda della nostra mente, del nostro animo, e quindi forse tocca dei sentimenti più immediati, più profondi, non saprei dire esattamente. Forse ha una spiegazione per tutto questo la dottoressa Luisa Lopez, buongiorno, che è in linea con noi. Buongiorno, responsabile medico dell'ambulatorio di neuropsichiatria del villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata e consulente scientifica della Fondazione Mariani per il progetto Neuroscienze e Musica. Dottoressa Lopez, la musica produce un impatto molto potente nella nostra mente. Insieme ad Alberto Pellai e al maestro Einaudi stavamo cercando di capire le similitudini ma anche le differenze tra quello che produce l'ascolto musicale e quello che invece produce la lettura di un brano. Come diceva giustamente il maestro Einaudi, la lettura di un brano lega ad un significato, lega ad una semantica, per cui è vero che noi costruiamo poi immagini visive e abbiamo molti vissuti rispetto a quello che leggiamo, però siamo un po' guidati dall'intento dell'autore. Nel caso della musica, il fatto di non avere un brano unico nella scrittura e quindi di non avere un significato unico ci permette di spaziare, quindi in base anche alla nostra cultura, ma soprattutto alle caratteristiche intrinseche della musica, alle sue tonalità, i suoi accelerati, i suoi rallentati, tutte le varie modifiche che l'autore vuole inserire, noi possiamo essere liberi di spaziare, per cui andiamo un po' più profondamente nelle nostre emozioni. Un po' lo dimostrano anche gli studi di risonanza magnetica funzionale, però ecco, forse è questo, l'assenza di un limite, ecco, che può essere forse dato dal contesto linguistico. Alberto? Sì, direi che in fin dei conti tutta la nostra vita, no, funziona un po' così, cioè ci sono delle parole che ci arrivano e che vanno poi nella nostra mente a essere decodificate dall'area, e poi abbiamo un emisfero che è prevalentemente verbale e che quindi attribuisce i significati. Poi c'è tutta una zona che invece è quella del contesto, il sottofondo, le espressioni, cioè una cosa che non è così semanticamente codificata e che il nostro cervello però continua a registrare, e nel momento in cui la recepisce deve inventarsi i suoi significati. Credo che la differenza fra una canzone e una musica senza testo è proprio che la canzone entra già in un mondo di significati e tu devi decidere come ti collochi rispetto a quanto ti viene raccontato. Se tu ascolti una musica invece sei tu che devi andare a recuperare nei cassetti degli infiniti significati che hai dentro alla tua mente quello che viene realmente aperto da quella musica, che diventa una chiave che entra in una specifica serratura. Grazie dottoressa Lopez per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno a tutti. 800 24 00 24, nella seconda parte della trasmissione vogliamo dare spazio alle vostre telefonate e l'esercizio che proponiamo oggi, e abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi il maestro Ludovico Einaudi, è proprio quello di capire che dimensione ha il tempo nella nostra vita. Alberto suggeriva una lettura verticale orizzontale del tema, ma avete la necessità, sentite che è arrivato il momento di prendervi del tempo, e come lo occupate? Essere e benessere. Siamo tornati insieme in una puntata speciale. Carmelo Lauricella mi diceva Nico, perché io stavo chiacchierando con il maestro Einaudi, me lo godevo un po'. 800 24 00 24, se volete entrare anche voi in una sorta di salotto radiofonico, parliamo di tempo. Abbiamo maestro Einaudi ha scelto quattro dei testi che sono arrivati a Essere Benessere con l'iniziativa Ascolta e Scrivi. Ha fatto abbastanza fatica, vero maestro? Sì, perché alcuni erano molto lunghi, per cui forse era poi difficile contenerli dentro. Però sono scelti, ma potete naturalmente intervenire in diretta e mettervi un po' in gioco con noi, riflettere insieme sul tema tempo. Non ci siamo dimenticati anche degli ascoltatori che interverranno oggi in trasmissione, e anche per loro abbiamo la possibilità di abbinare alle loro risposte, ai loro interventi, alle loro emozioni, alle strategie, alle ricette che ci suggeriranno per godere il tempo, avere una dimensione del tempo salutare. Due CD naturalmente autografati dal maestro. 800 24 00 24, Alberto. Ma direi che potremmo dare anche questo stimolo, cioè solitamente quando il tempo diventa una fatica, un disagio, un ostacolo, è perché lo intendiamo come tempo per fare, cioè riempire il tempo avendo delle attività, dovendo fare, dovendo essere prestazionali. C'è un'idea di tempo che invece è il tempo per stare, cioè il fatto che noi possiamo stare immobili nell'immobilità del tempo, e a quel punto diventiamo un po' più consapevoli di chi siamo proprio in questo istante, in quel passaggio della nostra vita. E in generale questo significa costruire una buona sintonia, una buona sincronia tra mente e corpo. È incredibile, per esempio, come dallo psicoterapeuta, molti psicoterapeuti propongono il rilassamento in una fase della seduta, e il paziente ti dice: ah, questa è una cosa meravigliosa, ma non hai bisogno di un esperto che ti dice trovati 15 minuti o 10 minuti della tua giornata per stare lì immobile e ritornare in contatto con te stesso. Quindi ci sono strategie anche molto molto semplici che una persona può imparare a usare e gestire, deve però decidere che se le vuole regalare, perché quello solitamente viene chiamato tempo perso, e invece è probabilmente un tempo prezioso che la nostra mente e il nostro corpo richiede avidamente. Maestro, lei che rapporto ha con il suo tempo? Come è cambiato nel corso della sua vita? Diciamo che è cambiato col fatto che adesso spesso sono più pieno di cose da fare, però rispetto all'idea che c'è, che poi non si ha tempo per fare alcune cose, io non ci credo tanto. Penso che anche nelle giornate più impegnate ci si può ricavare il tempo per farsi un tè o anche per preparare una cena, per dire. Infatti quelli che arrivano e dicono il forno microonde per fare tutto, secondo me si può fare anche in mezzo a tante altre cose. Si può pensare, per dire, di preparare una minestra di verdure tagliandosi le verdure una dietro l'altra, e poi nello stesso tempo fare delle cose che richiedono Ecco, quindi è il segnale quando noi diciamo faccio questo perché mi fa risparmiare tempo, non ho tempo. Forse questi sono segnali che ci aiutano a capire che stiamo in qualche modo trascurando molto di noi. E poi penso che anche, appunto, poi tutto il rapporto con la tecnologia che ci accelera tante cose, in realtà poi ci complica, cioè ci toglie tempo a delle altre cose, ci toglie tempo a noi stessi, no? Perché poi alla fine sei diciamo costretto a una velocità di risposte, di interazioni di cui molto spesso non c'è bisogno, no? Quindi secondo me poi bisogna a un certo punto staccare un po' dalle pressioni, perché comunque c'è tempo per tutto, e bisogna non dimenticarsi mai che i primi, diciamo, a non dover subire queste pressioni siamo noi stessi, e quindi prenderci il tempo prima di tutto per noi stessi. Avere un po' di tempo per noi stessi. 800 24 00 24. Riuscite a prendere del tempo per voi stessi, oppure siete sempre di corsa? Avete sempre la sensazione che il tempo corra veloce, che vi scappi dalle mani? Non c'è tempo per gli affetti, non c'è tempo per fare ginnastica, non c'è tempo per cucinare. Il maestro citava il forno a microonde. Io, ad esempio, quando sono stanca cucino. E trovo che sia una cosa straordinaria, perché nei gesti, lei quando ha detto affettare, tagliuzzare le verdure, è veramente una cosa che ti rilassa se lo fai con lo spirito giusto, no? Proprio come un'occasione che ti dà modo di essere presente. Adesso non tutti gli ascoltatori devono fare la minestra di verdura, anche se con sì. questo tempo sarebbe perfetta, no? Sì, o anche appunto osservare, per esempio, le volte che mi è capitato di andare in Giappone, osservare la cura, diciamo, dei gesti nelle cucine, ma anche nella preparazione del tè, dell'asciugare, diciamo, quei piccoli rituali. Ecco, ma qual è il piccolo rituale del maestro Einaudi? Ma il piccolo rituale è forse il tè. Il tè in varie ore del giorno me lo preparo. Cambia sì, qualità lei. Cambio qualità, sono abbastanza... Ci dica un po', sì. Vedo che lei sa, è abbastanza preparato, anzi beh, molto. Diciamo al mattino bevo un tè verde fermentato, che sono i tè Oolong, che sono un tè proveniente dalla Cina. E ce n'è un tipo in particolare che si chiama Tiguanjin, che mi aiuta molto, se devo fare anche un lavoro intellettuale, mi aiuta molto la concentrazione, mi isolo, diciamo, da tutto il resto, mi tiene sveglio senza però darmi stress come sì. il caffè. Segnate tutto, Tiguanjin, amici da casa. Long. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Il pomeriggio posso continuare con questo, oppure vado invece su un tè indiano, Darjeeling. Però appunto, detto questo, non prendete mai il tè in bustina, prendete sempre il tè sciolto. Sì. Poi diciamo ogni tè, guardate un po', si trovano informazioni sulle temperature dell'acqua, qui va... Va scaldato, ogni tipo di tè ha bisogno della sua temperatura e quindi compratelo. Poi ci sono alcuni siti dove si trovano o anche negozi dove si trovano tè di qualità, quindi non comprate tè, diciamo, nei supermercati. Quindi tè puri, non mischiati, Darjeeling, Oolong o tè verdi di prima qualità. Mi ricordo questo grande, bellissimo negozio di tè a Parigi, Maria Geffrer, che prima era vicino al Centre Pompidou, poi si sono spostati e sono andati al Marais. E dentro ci sono questi profumi straordinari con queste... Bellissimo, un viaggio. Lara da Como, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Eccoci. Dunque, io volevo fare queste considerazioni. Sono arrivata a 51 anni. Sì. E... così di colpo dico quanto tempo che ho buttato via con me stessa. Allora riesco ad avere adesso un po' più di tempo per me stessa e mi dedico alle cose che preferisco, come diceva anche il dottor Einaudi. La cosa però che mi accorgo oggettivamente con i miei figli. Sì. Dicevo prima, quasi a livello psicologico, cioè mi sembra quasi di forzarli ad occupare meglio il tempo, nel senso che ho un'idea di tempo trascorso bene e di tempo trascorso male. E quindi cerca di... Cerco però, volevo dirle, cerco di educarli a trovare delle cose migliori da fare. Che non necessariamente magari per me possono essere positive. E allora a volte dico, ma... Quindi si occupa anche un po' del tempo dei figli, ma la ricerca del tempo deve essere forse proprio una ricerca individuale. Naturalmente Lara come mamma, anch'io Lara faccio il suo stesso percorso, ma non sempre le mie figlie sono contente. Essere e benessere. Siamo tornati, Alberto. Ma Lara ci ha detto intanto una cosa importante, cioè arrivare ai 50 e dire adesso ho capito che il tempo che ho speso posso anche spenderlo in un altro modo, cioè rallentare. Mi sembra una straordinaria consapevolezza ed è proprio un po' la saggezza del crescere. E di questi tempi più si invecchia, più in realtà... sembra che il tempo vada ulteriormente riempito ancora di più che nel Lara, passato. Lara, scopre il tempo a 50 anni. Alessandro da Rimini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi richiamato. E io volevo portarvi questa mia testimonianza perché mi è venuta in mente quando ho ascoltato questa cosa che avete fatto, no? Ascolta e scrivi, mi è piaciuta tantissimo. Grazie Alessandro, mi piace questa che le sia piaciuta. Lei fa lo psicoterapeuta? Sì, io faccio lo psicoterapeuta e volevo dire questo, mi ha fatto venire in mente quanto io utilizzi la musica e nelle sedute che faccio, in alcuni tipi di sedute naturalmente, dove il corpo e la storia di una persona sono una sorta di cassa di risonanza, e la musica senza parole come quella del maestro Einaudi e per me è molto utile proprio per creare una sorta di tela dove ogni paziente poi può descrivere immagini, pensieri, a volte anche ricordi. Quindi no? Alessandro, lei come psicoterapeuta suggerisce l'ascolto della musica senza parole per riattivare emozioni, ricordi, per orientare delle visualizzazioni, ovviamente alcuni tipi di musica, come prima spiegava anche la neuropsichiatra, suscitano certi tipi di emozioni e altri ne suscitano diverse, certo. No? E quindi aiutare le persone attraverso la musica con delle visualizzazioni a far emergere quelli che possono essere pensieri, ricordi, eccetera, e poi ovviamente nel lavoro terapeutico vengono utilizzate le cose che emergono, però ecco, è molto molto bella, sono delle storie, sono dei quadri a volte, proprio queste storie. Grazie Alessandro, andiamo a Enea dalla provincia di Varese e poi a Giovanni da Padova. Enea, buongiorno. Sì, salve a voi. Io una semplice considerazione veloce. Il tempo per me ha un prezzo, ha un costo. Brevemente, io il tempo lo fermo quando faccio qualcosa che mi piace. Parlando di musica, facendo musica o ascoltando musica, il tempo si ferma. Se poi per altri motivi, purtroppo non è una mia professione, o per scelta o per altri motivi, perché non sono stato fortunato, è chiaro che devo fare un'altra attività. E questo tempo scorre, e scorre per forza, perché uno deve per forza nella vita o fa la scelta di non lavorare, se no. Quindi il tempo scorre fino a che si ritaglia nell'arco della giornata, questi anche possono essere 10 minuti, sì. Semplicemente anche, ripeto, o ascoltando musica o, come diceva il maestro Einaudi, anche se solamente cucinandoci un piatto, ecco, per cui il tempo purtroppo per noi non fortunati, ritengo così, ci si ritaglia quel poco tempo e lì si ferma il tempo. Poi purtroppo le 8 ore, le 10, le 12 lavori in cui si lavorano, certo. Maestro. Quello scorre e purtroppo ha un costo. Insomma, questo. Basta, il tempo ha un costo, grazie Enea, il tempo ha un costo, sì, dice no, Enea. No, ma difatti sicuramente anche in una giornata molto piena di cose da fare poi... a me capita appunto anche a me di avere giornate che durano 10-12 ore, magari sto a lavorare fino alle 2 di notte, però appunto in tutto l'arco si può ricavare quel piccolo spazio che dicevi tu adesso che ti permette poi di completare, diciamo, di andare avanti, di avere quegli momenti in cui la tua mente si concentra su un'altra cosa. Noi possiamo allora imparare a prenderci un po' di tempo nel corso della giornata, bastano pochi minuti, che sono, è un tempo un po' alla portata di tutte, un appuntamento per ascoltarsi, anche per ritrovarsi, perché ogni tanto occorre tornare a noi stessi e respirare davvero, basta poco, una piccola azione per un grande risultato. Allora proviamo a farlo insieme, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno. Io ho chiesto a Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training di farci da guida, in linea con noi. Buongiorno, ciao Daniele. Buongiorno Nicoletta, ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo veramente una manciata di minuti, però vorrei iniziare a proporre un esercizio, il primo di una serie, perché vorrei lanciarvi una proposta. Trovate un minuto per voi stessi, tutte le volte che potete. Fatelo ogni giorno per tutta la settimana e poi raccontateci com'è andata. Potete usare la nostra pagina Facebook come un diario, lo usiamo come nostro diario collettivo, e venerdì tireremo le somme. Ogni giorno metteremo sulle pagine del programma l'esercizio suggerito da Daniele Bellone. Ogni giorno lui tornerà a trovarci in una sorta di percorso. Daniele, iniziamo da oggi. Sì, iniziamo da Sankalpa, una cosa, una parola sanscrita che si usa nello yoga con l'accezione di determinazione, intenzione oppure anche decisione.